Italia in controluce. Buon pomeriggio a tutti sulle frequenze di Radio 24. Quest'oggi per Italia in controluce facciamo una partita nuova, cioè raccontiamo l'esperienza di un musicista, di Massimo Priviero. Buon pomeriggio. Massimo. Ciao Daniele, buongiorno. Priviero è un cantautore sulla scena da molti anni, un cantautore di impegno civile, ma comunque chitarrista sia di rock che di canzone, diciamo più impegnata, che però proprio in questi giorni fa partire un tour con un CD che si chiama Folk Rock, ed è praticamente il riassunto di quello che un pezzo di generazione ha ascoltato. Cioè qui dentro ci sono musiche di Bruce Springsteen, Jerry Lee Walker, di Bob Dylan, di Neil Young, solo per citarne alcuni, o di Van Morrison, quindi di musica di qualità prevalentemente americana. Perché questa scelta, Priviera? Beh, prima di tutto è da ricordare che è un viaggio in condivisione con Michele Gazic, che è un violinista di prim'ordine e che spesso mi ha affiancato nei miei live e con cui ho condiviso a quattro mani questo progetto. È la necessità di... L'album si chiama Folk Rock perché è un pochino un ritorno alle origini o riscoprire la strada maestra di una certa musica principalmente anglo-americana, ma che in realtà è diventata patrimonio di tutti. E quindi dopo una dozzina di album che ho fatto, alcuni che hanno scalato classifiche, come si dice, altri meno, e tanti tour, tanti show e così, mi è piaciuto ritornare un pochino da dove sono partito, da dove siamo partiti. Chitarra e violino, quindi questi sono chitarra i due e elementi e la voce, no, naturalmente. Sì, allora sì. Io vorrei iniziare a farvi ascoltare con Priviero live su Radio 24 una delle grandi canzoni di un maestro della musica americana, si chiamava Neil Young, si chiama ancora Neil Young, sì. E il pezzo è Helpless. There is a town in North Ontario, we dream, come for memory to spare. And in my mind, still need a place to go. Oh, my changer were there. Blue, blue, and those behind the stars. Yellow moon on the rise. Big birds flying in across the sky. Throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless, helpless. So baby, can you hear me now? The chains are locked and tied across the door. So baby, sing with me somehow. So blue, blue, and those behind the stars. The yellow moon on the rise. The birds flying in across the sky. The throwing shadows on our eyes. Helpless, helpless, helpless. Helpless, helpless, helpless. Massimo Priviero, live a Radio 24, Italia in controluce. Sono le canzoni che ci hanno accompagnato quando avevamo poco meno di 20 anni, ma che però sono rimaste immortali, perché certe canzoni come, non so, Thunder Road di Bruce Springsteen, o questa Helpless di Neil Young, o dei Joe di Jimi Hendrix, On the Healing Has Begun di Van Morrison, restano immortali e altre no? Perché? Perché le canzoni più grandi, come qualsiasi espressione della creatività umana, quando sono più grandi, scavalcano il tempo in cui vengono scritte ed in qualche modo disegnano la strada maestra e quindi hanno un valore maggiore, un valore aggiunto di impatto energetico, di poesia, di traduzione del tempo che stiamo vivendo in quel momento. Quindi le cose più grandi scavalcano il loro tempo e queste canzoni l'hanno fatto. E passano attraverso altre generazioni, quindi. Sì. E ci ricordano anche che rock and roll, diciamo così, parte da un bisogno, ha dentro un grande bisogno di poesia e non sono le storielle dei bar di tanto rock italiano, per esempio. Certo, e c'è ancora molto da fare e molto da scrivere. Folk rock parte il 30 da Piacenza, sì. Al di là del CD è un tour, sarà un lungo tour dove tu insieme a Gazic, quindi voce, chitarra, sei corde e violino, inizierete questo lungo percorso attraverso la penisola italiana. Sì. Dal punto di vista musicale in Italia trovate facilità o difficoltà? Questo è un buon periodo oppure è un periodo di crisi? È un periodo difficile come per tutte le cose e quindi anche per il live e per i tour in generale, quindi non ti nascondersi. Però devo dire che ci sono già 20 date fissate da 30 di giugno fino alla fine di ottobre, che è il periodo in cui porteremo in giro questo tour. E quindi c'è un'attenzione molto forte, l'album è stato accolto, devo dire, molto bene. Per me è un pochino una parentesi che anticipa il mio prossimo album di inediti che uscirà all'inizio del 2013. E comunque la scelta delle canzoni, a differenza del lavoro che fai quotidianamente, sì. Però diciamo c'è sempre una scelta di impegno civile. Certo. Quando parliamo per esempio di Bob Dylan, parliamo comunque di un artista che pur attraversando delle generazioni ha raccontato un'America dalla guerra del Vietnam, forse ancora prima, sì. Riprendendo un po' il suono di Woody Guthrie. Certo. No? Ma perché? Perché la musica non può essere sganciata dal tempo in cui vivi, e se tu hai la forza, la poesia, l'energia, il desiderio di schierarti, soprattutto di schierarti con la parte debole del mondo, che secondo me è il vero compito che dovrebbe avere. Tu parlavi di Woody Guthrie, che era l'emblema più grande di questo senso. Qui quest'anno ricorre il centenario, esatto, della nascita. Sì. Per esempio questa canzone che scrisse Dylan tanti anni fa, che lo fece diventare, la scrisse che aveva poco più di 20 anni. E io mi ricordo quando scrisse Hard Rain Gonna Fall, no? Che è scritta con l'idea, con la visione un pochino onirica di un prossimo diluvio universale, più o meno sempre incombente, visto i rischi del mondo. E quando scrisse questa grande canzone, tutta la popolazione di scrittori che tu conosci molto bene, che ami molto, i vari Ginsberg, Ferlinghetti, Corso, dissero che è arrivato uno di noi, è arrivato uno nuovo, è arrivato uno di noi. Solo che c'è pure la chitarra in mano rispetto a noi e scrive canzoni, però è forse più bravo di tutti, e questo è quello che indica la strada. Ed è ancora in giro per il mondo a narrare storie. Bob Dylan, Massimo Priviero dal vivo su Radio 24. So where have you been, my blue eyed son? Where have you been, my darling young one? I stumble on the side of a 12 misty mountains. I walk and I crawl on six crooked highways. I step in the middle of seven sad forests. Been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, rain's gonna fall. did you see in the blue-eyed sun? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby while I was all around him. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black brain with blood that kept dripping. I saw a poor man with a hammer's bleeding. I saw a wild leather crow with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw gunshot swords in the hands of young children. And it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart. Gonna fall. It's a hard rain gonna fall. Grazie a Massimo Priviero su Radio 24 Italia in Controluce e naturalmente ti auguriamo il lungo viaggio della musica nel nostro paese, nella nostra penisola italiana che inizia il 30. Il 30 di giugno partiamo da Piacenza, poi saremo alla memoria il 7 a Sogliano, al lago, sul lago di Garda. Ci sono tante date che comunque trovate nel sito ufficiale, nei miei Facebook, in tutte le cose che normalmente oggi si trovano, ma saremo molto in giro, chiuderemo penso con una grande data a Milano a inizio di novembre. Era Italia in Controluce, questa come tutte le puntate di questo programma, come tutti i programmi di Radio 24, potete scaricare in podcast e riascoltare sul sito radio24.it, siamo su Facebook, pagina gruppo, su Twitter. Torniamo domani con nuove storie alle 6:30 su Radio 24.